ragazzo mio, un giorno ti diranno che tuo padre aveva nella testa grandi idee, ma in fondo poi non ha concluso niente. Ah, tu non credere, vogliono fare di te un uomo piccolo, una barca senza vela. Ah, tu non credere che appena s'alza il mare gli uomini senza idee per primi vanno a fondo. Ragazzo mio, un giorno i tuoi amici ti diranno che basterà trovare un grande amore e poi voltare le spalle a tutto il mondo. Non devi credere, non metterti a sognare lontane isole che non esistono. Non devi credere, ma se vuoi amare l'amore tu non gli chiedere quello che non può dare. Mio, un giorno sentirai dire dalla gente che al mondo stanno bene solo quelli che passano la vita a non far niente. Ah, tu non credere, non essere anche tu una acchiappanuvole che sogna di arrivare. Non devi credere, non invidiare chi vive lottando in vano col mondo di domani. Non devi credere,